Buon pomeriggio a tutti, allora benvenuti, grazie di essere qui. Come prima cosa, ancora la dimostrazione che la mobilitazione, almeno quella, non è precaria, no? Visto che siamo un po' di persone, quindi un ringraziamento sicuramente alla rete dei redattori precari che ha organizzato questa piccola chiacchierata sul mondo dell'editoria oggi, a margine della fiera del libro per ragazzi, visto che Bologna questa settimana e questo weekend è invasa da libri e da chi vende, fa, scrive, illustra, disegna e divora libri come tutti noi. Io mi chiamo Filippo Piredda, lavoro per una radio qui di Bologna, Radio Città Fucico, anche io precario, ma giornalista, faccio parte di un'altra rete di giornalisti precari dell'Emilia Romagna, che anche questo è un coordinamento che è nato da qualche mese, parallelamente ad altre esperienze analoghe in altre regioni. Insomma, anche dalle nostre parti ci proviamo un po' a fare qualcosa, a resistere. Abbiamo un po' di ospiti e prima di iniziare facciamo allora la presentazione. Abbiamo Mario Guaraldi, che nelle veste di editore, docente, editore, insomma, racconterà diverse esperienze. Poi abbiamo qua Simona Biondo, che invece nei panni della traduttrice, Luigi Bernardi, invece anche lui è parte di scrittore, soprattutto, poi Alessio Festi, che invece è nella parte del sindacalista.